It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la vita torna alla normalità, Kappa e Drago parlano dell'astrazione. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Caro Kappa. Caro Drago. Caro Kappa. Caro Drago. Cosa è? Cosa c'è? La vita, caro Kappa, la vita in questa fabbrica tetra piena di polli sta diventando impossibile. Scopri l'acqua calda, Drago, dai su, ma scusami, Kappa, non vediamo la luce del sole da troppo tempo. Il nostro organismo non può adattarsi a vivere al buio. Non siamo talpe o pipistrelli. No, siamo cot polli. Ma che cot polli? Siamo cot uomini, hai capito? No, Drago, sì, ho capito, ma solo in apparenza. Ma come in apparenza? Sì, siamo uomini finiti a vivere in una prigione piena di polli e galline e pulcini. Ti sembra un caso? Ti sembra una coincidenza? Ma certo che è una coincidenza. Abbiamo sbagliato strada un sacco di tempo fa e abbiamo trovato riparo dalla nebbia e dal gelo in una zona industriale dove sorge un allevamento aviario, tutto lì. Sembri che no. Anzi no, sembri Umberto Eco che traduce che no. Ma perché? Cosa c'entra? Come perché? Perché hai messo giù così in pochi secondi un discorsetto che fila, stilisticamente coerente, per dire una cosa che potresti dire in mille altri modi diversi. Non capisco, esercizi di stile, perché cos'è? Per forza, Drago, è letteratura matematica, per forza non capisci. Senti come la racconterei io. Dopo una vita passata a respirare a pieni polmoni l'aria infetta di un'epoca già morta, già postuma, dominata dalla superficialità e dalla poltiglia del postmoderno, siamo finiti all'origine di tutta la stupidità umana e siamo chiamati a compiere un cammino allegorico verso la libertà. Allora, cosa ne dici? Facciamoci un uovo alla coque, va? Oppure due spaghetti. A mezzanotte? Spaghetti a mezzanotte. A mezzanotte? Prendere avanzi dal frigo, mettere acqua sul fuoco, scolare prima che siano scotti. Do you want spaghetti a mezzanotte? Do you want spaghetti a mezzanotte? A mezzanotte. La fabbrica dei polli. Quando facevo ancora il negoziante di dischi, ero un uomo. Non ero mica un pollo che vendeva dischi, ero un uomo. Io sono nato negli anni 60 a Milano. Da bambino ho visto l'Italia ancora povera. Sembrava l'Albania di adesso, anzi, peggio, perché non c'erano le TV a colori, le parabole, i computer, le macchine di lusso e tante altre cose. In Italia l'unico PC che c'era era il Partito Comunista. Mica balle, C'erano ancora i cappottoni marroni che si usavano per anni e anni e si passavano tra fratelli. Le scarpe ortopediche, i sandali coi due buchi davanti e la mucca Carolina gonfiabile sulla spiaggia. I capi famiglia andavano a lavorare in Lambretta e solo qualcuno aveva una 500, una giardinetta per andare al mare ogni tanto. Al mare poi sono andato per la prima volta a 14 anni, in treno. Via Voghera, Tortona, Ronco Scrivia, Genova Principe, Savona e poi Albenga. L'unica città della Liguria che sta in pianura. Mio padre era dalla bassa e preferiva così. Le montagne sul mare gli davano fastidio. Sì, ma perché sto dicendo queste cose? È che da quando la paroxetina scarseggia, io vado sempre più spesso in sbattimento triste. l'Italia degli anni 70 era in mano a politici con gli occhiali dalle montature nere e spesse. Erano pelati, vecchissimi, corrotti. Li vedevi dalle facce che avevano. E sulla nazione era steso un lenzuolo grigio che però era la nostra vera essenza. E forse per questo che io ho cominciato ad avere la passione per la musica. Perché l'unica cosa che ti tirava fuori da quel grigiume era la musica degli anni 70. E il rock inglese, americano, e il crowd rock. E solo così riuscivo ad evadere. Il resto, gli anni 80, 90, eccetera, è stata tutta una discesa verso la polarizzazione. Non siamo riusciti a diventare moderni. Ci hanno detto che lo eravamo diventati e ci siamo illusi. E adesso, eccoci qua, tutti nella fabbrica di polli. Ma io il becco ce l'ho, In the middle of nowhere. Trasmettiamo un elenco di vocaboli della lingua italiana con iniziale la lettera T. Abbiamo trasmesso un elenco di vocaboli della lingua italiana con iniziale la lettera T. Vedi, Drago? Vedi? Questo è il reparto dove i polli vengono nutriti a forza per ottenere il fegato d'oca. Ma come? Non sono oche. Sono... Appunto. Sono occhi... Ok su ghiaccio. Sono ok su ghiaccio. Non sono oche, sono polli appunto. Normali, come appunto. Appunto, Drago, da un pollo ottengono un fegato d'oca. È come dire che da te possono ottenere un fegato di manzo, dai. Vedi come sei limitato? Ma... Non capisci mai al volo i simboli che ti si parano davanti, Drago. Sì, il fegato d'oca si chiama così, ma non è letteralmente fegato di oca. Questo lo dici tu. No, nei negozi di delicatesse, ci sei mai stato? Sì, certo. Ti danno il patè di fegato d'oca, che in realtà è patè di fegato di pollo in sbattimento. No, guarda, che questa è una truffa, non è un simbolo, non so da dove ti lo vedi quel povero galletto? Sì. Gli pompano in gola un mucchio di mangime, gli fanno venire un fegato così e poi lo macellano. E non è un simbolo quello. Sai, io ho sempre avuto difficoltà a capire i simboli, perché, ad esempio, Gesù sulla croce, no? Io fin da bambino ho avuto paura dei crocifissi. Non è che sei un vampiro. No, no, è che non ho mai ben capito perché noi cattolici abbiamo la fissa di Gesù sulla croce. Cioè, Gesù ne ha fatte di tutti i colori. Il Vangelo è pieno di storie interessanti anche dal punto di vista narrativo, ma dappertutto, appeso ai muri, non è che c'è Gesù che guarisce Lazzaro o che cammina sulle acque, no, c'è Gesù che sta morendo, ed è un'immagine anche un po' macabra, no? Ma Drago, ma ce lo insegnavano al catechismo nel 1976. Gesù è morto per salvare gli uomini. Appunto, è quello che non ho mai capito. Cioè, se non lo mettevano in croce e viveva fino a 90 anni pieno di seguaci, con grande potere politico e spirituale, magari l'umanità si salvava per davvero. E mica come adesso. Insomma, Fidel Castro non muore mai. Cade dal palco, si rompe il femore, gli vengono dei coccoloni, lo operano, ma è sempre vivo. Gesù è morto a 33 anni, nel fiore dell'età, e non ha potuto fare nemmeno metà delle cose che avrebbe potuto fare. Quindi non capisco perché morendo ci ha salvati. Drago, dovresti chiedere a qualcuno di importante, qualcuno che ne sa. Non so, alla conferenza episcopale. Episcopale. Che cosa succederà adesso? Riuscirà Drago a ottenere la risposta ai suoi interrogativi dalla conferenza episcopale? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo controverso allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce. Barrio Lumen.